Oh, ci siamo di nuovo. Eccoci. Scusate, come al solito, lo diciamo sempre, questa non è una radio di professionisti, è una radio di militanti, e quindi problemi tecnici sono all'ordine del giorno. Dicevamo, siamo qua con i compagni del Nodo, continueremo il discorso iniziato lunedì scorso sul Chiapas, sull'autonomia zapatista, sulle ZLN. La trasmissione, per chi se la fosse persa, è già su internet da una settimana, la trovate sul nostro sito internet comitatocarlosfonseca.noblogs.org. La volta scorsa avevamo parlato della storia e di come funziona l'autogoverno zapatista. Oggi, come avevamo anticipato, parleremo dell'offensiva contro l'autonomia zapatista e i territori indigeni dove ci sono i caracoles autonomi del Chiapas, e lo facciamo partendo dalla notizia che abbiamo già raccontato la volta scorsa, ossia questa aggressione a uno di questi caracoles, quello della Realidad, che si è conclusa con l'omicidio del compagno Galeano, un fatto che non ha precedenti nella storia del Chiapas zapatista, quindi l'omicidio di un compagno direttamente appartenente a uno dei caracoles del Chiapas. Questo omicidio è stato compiuto dai paramilitari della SEOAC, un sindacato contadino che ha circondato la comunità e l'ha messa in stato d'assedio, diciamo così, anche se non bisogna immaginare un esercito regolare, ma comunque si trattava di uomini armati. I compagni e gli abitanti del Caracollo invece non lo erano, e il compa Galeano è stato barbaramente ucciso. Questo fatto è avvenuto all'interno di un'aggressione che va aumentando nei confronti delle comunità zapatiste, e proprio di questo parleremo quest'oggi con i compagni del Nodo Solidale. Sì, un saluto a tutte e tutti quelli che ci stanno ascoltando, e questo è quanto brevemente avvenuto. La volta scorsa abbiamo parlato appunto della proposta politica degli zapatisti, che non è una proposta programmatica, quanto è una realtà dispiegata sul territorio, che dove vive e si nutre l'autonomia nelle comunità indigene e contadine, e tutta questa capacità di autogoverno degli zapatisti rende palese e manifesto non solo un'alternativa possibile al capitalismo, ma anche il fatto che i politici non servono, i partiti non servono, e che non c'è bisogno di professionisti per costruire, governare e gestire una società fra pari. Ovviamente questo comporta la repressione. L'omicidio del compa Galeano è la prima volta che ammazzano un compagno dalla fondazione dei Caracol. Ovviamente le ZLN ha una storia di caduti, come qualsiasi organizzazione rivoluzionaria, a partire soprattutto dall'insurrezione fino agli anni 90, dove era molto forte il paramilitarismo diretto, quello che più conosciuto, quello dei gruppi appunto civili armati dall'esercito. Invece oggi viviamo forme differenti di repressione, ma che vediamo, i cui tragici risvolti sono sempre quelli dei compagni ammazzati. Ovviamente è molto più complesso il panorama, perché il potere sa che deve agire in un certo modo in Chiapas, non può permettersi quello che si permette in realtà in altre parti del Messico, però una certa attenzione che richiama il Chiapas e la visibilità guadagnata dai compagni hanno fatto creare al potere nuove strategie controrivoluzionarie, che quelle che analizzeremo più tardi. Però in realtà, per cominciare, vorremmo condividere il testo di una compagna del Nodo Solidale, un saluto quindi anche a Irene, che ci ha scritto dal Messico, non ha scritto solo a noi, ha scritto a tutte e tutti quelli che sono mettono il cuore all'ascolto, perché per cercare di far capire la drammaticità dei momenti che stiamo vivendo come movimento al lato degli zapatisti. Compass, vi scrivo in un momento pieno di rabbia e dolore collettivi, in uno di quei momenti in cui ti ricordi di vivere in un paese in guerra, una guerra lunga che si perde di vista quando si è iniziata, una guerra permanente contro la popolazione, contro i popoli, che se guardiamo bene è in corso in tutto il mondo, ma qui è più sfrontata. Il 2 di maggio hanno ucciso Galeano, sono stati paramilitari, ovvero il governo messicano. Galeano l'avevamo conosciuto in agosto del 2013 all'Escuelita Zapatista. Eravamo migliaia da tutte le parti del Messico e da tutte le parti del mondo. Siamo arrivati in Chiapas e abbiamo avuto l'opportunità, il privilegio, di conoscere per una settimana la realtà che hanno costruito gli zapatisti in questi 20 anni di lotta e resistenza. Abbiamo vissuto ciascuno in una famiglia zapatista e ci accompagnava un guardiano e una guardiana. Abbiamo conosciuto la forma di autogovernarsi, la forma del sistema di educazione autonoma, di salute autonoma, di resistenza economica e tutte le aree dell'organizzazione della vita con cui gli zapatisti ci dimostrano che è possibile un altro mondo, che è possibile essere anticapitalisti davvero, senza ingiustizie. Il titolo dell'Escuelita era appunto La libertà secondo gli e le zapatiste. A me è toccato andare nella selva fronterizza, al confine con il Guatemala, nel cuore della selva Lacandona. Le comunità zapatiste che si trovano in quella zona si organizzano a livello regionale in ciò che loro chiamano il Caracol 1, la realità, madre de nuestros sueños. La realità è la sede della giunta di buon governo, una delle cinque esistenti in territorio zapatista, ovvero il governo autonomo rotativo del livello regionale. Pari a centinaia di persone, soprattutto giovani, siamo arrivati alla realità e lì ci aspettavano i nostri guardiani e le nostre guardiane e un collettivo di una ventina di maestri. I maestri della realità li coordinava Galeano, un compa pieno di allegria, molto preparato, che dimostrava ad ogni istante una disciplina piena di amore nei confronti di quello che stava facendo. Lottare, ovvero in quel momento, condividere con noi, alunni dell'Escuelita, la esperienza che costituisce sapere che siamo in tanti quelli che stiamo lottando quotidianamente per costruire altre relazioni sociali basate sulla libertà. Poi il 5 maggio la giunta di buon governo, l'autorità civile, ha denunciato l'aggressione paramilitare in cui hanno ucciso barbaramente il colpa Galeano. Si è passato il problema alle ZLN, ovvero alla struttura politico-militare. Le ZLN è tornato quindi dopo più di 10 anni nel territorio della comunità. Il 24 maggio si realizzerà alla Realidad un evento in omaggio al compa Galeano e così in tutto il mondo, dove ci siano persone di buon cuore che si sentano convocate a unirsi in un abbraccio collettivo alle comunità zapatiste perché condividano la loro stessa lotta. Non si tratta di una solidarietà con un'organizzazione che è altro da noi. Si tratta di concepire l'uccisione di Galeano come un simbolo della guerra che in tutto il mondo i governi e il potere stanno effettuando contro la gente e concepire il Galeano come un maestro della libertà, la stessa che tutti cerchiamo di costruire, ognuno a suo modo. Di solito noi abbiamo bisogno degli zapatisti e regolarmente accendono una luce di speranza che ci schiarisce le idee e illumina il cammino a seguire. Questa volta gli zapatisti hanno bisogno di noi. Se rispondono militarmente è il miglior pretesto perché il governo mandi l'esercito a distruggere il Caracol. Se rispondono come normalmente lo fanno attraverso la giustizia comunitaria che hanno costruito in maniera civile e pacifica in questi 20 anni, corrono il rischio che i paramilitari occupino militarmente la zona nell'impunità più totale. È necessario rompere il silenzio che i mezzi di comunicazione a servizio della dittatura di fatto messicana hanno costruito sugli zapatisti. È necessario uscire per strada e fermare la guerra come nel 94. Galeano è tutti noi, è la nostra libertà che costruiamo insieme. La voz de la gente, esta es la voz consciente. Tu poder es el dinero presente. Watch this. Hay represión y compra de conciencias para los que no piensan igual que tú. Hay desaparición, tumba, orejas para los que no seguimos el camino que dictas tú. Y es que no nos conformamos con limosnas ni migajas, y eso es lo que ofreces tú. Queremos más que tus falsas promesas, pero ya no creemos que puedas darnos eso tú. No, no, no, no, no, no. No creemos que puedas darnos eso tú. No, no, no, no. Bla bla bla y nada de verdad contigo, puro bla bla bla, mentiras sin parar, puro bla bla bla y nada de acción. Ya estamos listos para tomar el control, estamos armando el poder Caracol. Escúchalo como suena el poder Caracol, míralo como florece el poder Caracol, representando al poder Caracol. Cantamos la voz de los simbos, la voz de los olvidados. igualdad. La ira somete a la paz, con la mentira, con la falsedad. No sé qué está pasando aquí, tanta violencia, tanta destrucción. Podría salirse de control, el tiempo va deprisa, hay que reaccionar. Despierta, wake up. Estamos armando el poder caracol. Escúchalo como suena el poder caracol. Míralo como florece el poder caracol. Representando al poder caracol. Cantamos la voz de los sin voz, la voz de los olvidados. Este es el canto de los sin voz, sin voz. Ed eccoci di nuovo in diretta, Radio Onda Rossa 87.9 con Latinoamericana, e quindi affrontiamo questo tema, quello della guerra combinata di sfiancamento, che è l'aggressione multipla da parte dell'esercito, da parte di questi gruppi paramilitari nei confronti delle comunità zapatiste, in cui si inquadra anche l'uccisione di questo compagno. Sì, in realtà l'uccisione del compa Galeano rappresenta l'apice di una strategia che viene già applicata da tempo nelle comunità. Noi l'abbiamo definita guerra combinata di sfiancamento, è un nome come un altro per cercare di analizzare quello che sta avvenendo e soprattutto per rendere manifesto il fatto che in Chiapas la guerra continua, perché ovviamente c'è stata l'offensiva militare del 1994, poi ce n'è stata un'altra nel 95 e che seguivano i parametri della guerra classica, no? Una guerra di invasione fondamentalmente, con bombardamenti aerei e poi infanteria e poi la fanteria dispiegata sul territorio. E da allora è cambiato molto sia lo scenario messicano sia quello chiapaneco, però non è terminata in qualche modo l'osteggiamento, la persecuzione da parte del governo nei confronti dei compagni delle ZLN, perché va da sé che se un'organizzazione politica rivoluzionaria riesce a mantenere un territorio liberato ed inoltre in questi anni è riuscita a sperimentare anche una forma di governo alternativa al modello classico semidittatoriale imposto dal mercato, evidentemente il governo c'ha tutti i suoi motivi per attaccare i zapatisti. D'altro canto non ci dobbiamo dimenticare che la selva lacandona e in generale i boschi del Chiapas e la zona orientale del Chiapas sono un territorio ancora non sfruttato in maniera intensiva, e quindi in una fase in cui il neoliberismo sta riconquistando, ricolonizzando anche i meandri più lontani, i territori più remoti alla ricerca di materie prime da rimettere in commercio. E quella che poi chiamiamo, no, il saccheggio dei territori, cioè l'economia estrattivista, e in Chiapas non è potuto avvenire tanto questo grazie anche alla resistenza in generale, alla resistenza secolare degli indigeni, ma più specificamente a quella dei zapatisti negli ultimi 30 anni, 20 pubblicamente. Quindi il territorio, tutta questa autonomia siede su un territorio ricco di minerali, petrolio, risorse di legname quasi, no, la parola inesauribili non mi piace perché non è esattamente appropriata ai beni materiali che invece si esauriscono. Insomma, tutto questo per dire che le ambizioni in termini economico sono forse più forti di quelle politiche a volte, e queste sono queste le condizioni che permettono che dal potere scaturisca ancora una volta la guerra contro i compagni. Però dicevamo, c'è stata la guerra, l'attacco frontale militare nei primi anni 90, 94-95, a cui è seguita un'intensa preparazione militare dei gruppi civili presenti nelle comunità però antizapatisti, affinché facessero il lavoro sporco. L'evento più famoso di questo è il 97, il massacro di Acteal, quando i paramilitari il 22 dicembre attaccano questo villaggio dove non c'erano zapatisti in quel momento, ma solo un'organizzazione cattolica pro-zapatista che stavano pregando in chiesa, e massacrano 45 persone, fra cui 30 donne, 32 donne, alcune 4 donne incinta. E da allora quindi il governo, anche grazie alla pressione internazionale, alle denunce pubbliche che sono state fatte, alla reazione dei compagni, ha cambiato con una volta strategia. Quindi chiamiamo guerra combinata di sfiancamento una strategia antizapatista che usa differenti tattiche per attaccare i compagni, il cui obiettivo, per questo è combinata, perché è una guerra che combina diversi elementi sul piano economico, sociale, politico e militare, li combina al fine di sfiancare, quindi non distruggere immediatamente militarmente l'esercito, ma di sfiancarlo su diversi punti, sul piano economico, sul piano politico e sul piano militare, sfiancare i compagni e quindi rendere praticamente inesistente la forza bellica e politica delle ZLN. Quindi è, diciamo, come una guerra di logoramento, quindi in qualche modo anche a lungo termine, no? Il primo punto sembra molto complesso così, però se analizziamo punto per punto ci rendiamo conto di tutto quello che avviene quotidianamente in Chiapas. Innanzitutto lo strumento della detenzione politica e la persecuzione giudiziaria. Questo è facile da capire. Quando si creano condizioni per cui il governo emette un mandato di cattura o arresta un compagno al fine di isolarlo dalla comunità, levargli il suo incarico, no? Soprattutto compagni che hanno qualche funzione strategica dentro l'organizzazione. Questo è successo, non è la forma più utilizzata dal governo, dobbiamo ammettere, perché ovviamente un zapatista in carcere muove tutta una serie di movimenti come il nostro, per esempio urbani, e ovviamente chiama molto più l'attenzione che l'arresto di un qualsiasi altro compagno di un'organizzazione contadina, sempre per la visibilità che si sono guadagnati gli zapatisti. Quindi però in questi anni abbiamo assistito all'arresto selettivo e capillare di alcuni compagni base d'appoggio del ZLN, e a cui di solito si inventano falsi delitti e si lasciano in carcere. Quasi sempre, diciamo, possiamo dire, siamo riusciti a, come movimento in generale, e grazie anche alla pressione politica delle ZLN, a liberare questi compagni. Però è una delle forme che si utilizza il governo. E il secondo punto è la militarizzazione del territorio Chiapas. Formalmente il governo messicano non parla apertamente di una guerra in Chiapas. L'attitudine del governo messicano è dichiarare che in Chiapas già da tempo si è fatta la pace, cioè in fondo le ZLN è un ricordo del passato. Se andate a San Cristobal potete comprare le cartoline in qualsiasi negozio del centro, che ci sta la foto di Zapata del treno del 1914 e ci sta la foto di Marcos il 1 gennaio del 94. È parte della storia, fra l'altro è la storia colorita del Messico rivoluzionario, ci mancherebbe, si presta al folklore locale. E però oggi in Chiapas va tutto bene, fra l'altro ci sono stati anche governatori di sinistra, questo. Ecco, e quello che resta sono 60.000 militari piazzati in tutto il Chiapas, sono circa 60.000, e in grandi caserme situate in posti strategici, però soprattutto in centinaia di piccoli posti militari, piccole casermette invece sparse nelle comunità, anche nelle comunità più remote. Quindi in Messico si basa su... Domanda, ma rispetto ai territori dove invece governano i caracoles zapatisti, lì l'esercito entra periodicamente, non entra affatto, a delle basi? Attorno ai caracol, diciamo, nelle comunità dei caracol non c'è presenza militare, però in comunità che sono totalmente zapatiste, non c'è presenza militare, ossia si impedisce loro l'entrata. Però quello dicevamo anche l'altra volta, il territorio liberato è a macchia di leopardo, non c'è continuità territoriale fra una zona autonoma e l'altra. Una zona autonoma può essere pure la casa di un compagno circondata da 50 case dei priesti, no? Di gente fedele al governo. Quindi questa mancanza di continuità permette, in questo vuoto tra un territorio autonomo e l'altro, dove si inseriscono le postazioni militari. Quindi esistono comunità divise in cui la parte ufficialista, la parte vicina al governo, ha ceduto un ettaro per mettere dei militari. Quindi in territorio zapatista, cioè, possiamo dire che in territorio zapatista sì, ci sono militari, anzi è dove più ci sono militari. Ovviamente ci sono delle zone ampiamente controllate dai compagni dove si impedisce loro il pattugliamento o l'entrata, però in generale non possiamo dire, cioè in generale gli zapatisti convivono con la presenza militare. Per questo la militarizzazione del territorio, fra l'altro oggi giustificata come guerra al narcotraffico, come controllo del flusso migratorio, mai una truppa militare mossa in Chiapas contro gli zapatisti a livello mediatico. Viene utilizzato il tema del narco, però se pensiamo l'indice di omicidi realizzati dalle bande rivali dei narcos nel nord del Messico, che è 100 volte superiore a quello del Chiapas, le zone zapatiste sono una delle zone più sicure dal narcotraffico, proprio perché gestite dai compagni. Eppure il Chiapas è uno degli stati più militarizzati nel Messico, ci sono più militari in Chiapas che a Ciudad Juárez. Quindi questo c'è cercare di anche contestualizzare la guerra contro il narco, però ovviamente forse qui abbiamo già parlato tante volte da Colombia, non è assolutamente nuovo questo discorso. Quindi la militarizzazione crea dei problemi nelle comunità, non è solo la presenza militare, quanto sono delle forme di inibizione, perché comunque le truppe militari occupano dei pezzi di terra e usufruiscono delle risorse delle comunità e soprattutto favoriscono la divisione fra le comunità, quindi gente che magari non è zapatista, però che magari non ha niente contro gli zapatisti, a volte si trova spinta da situazioni, dalla presenza dei militari, a prendere posizione. Questo polarizza il conflitto intracomunitario. D'altro canto, i militari significa entrata di alcol e prostituzione nelle comunità. L'alcol è vissuto in maniera come uno strumento di controllo nelle comunità indigene. Io a volte qua non si riesce a capire la profondità di questo problema. Di fatto l'alcol è proibito, la vendita e il consumo di alcol è proibita nelle comunità zapatiste per il fatto che gli effetti devastanti dell'alcol sono paragonabili a quelli dell'eroina qui. Cioè, servono a distrarre totalmente gli giovani, servono a sottrarre quei pochi soldi che hanno i contadini e rimandarli ai padroni attraverso il consumo spropositato di alcol. A sua volta questo comporta la presenza di bettole per prostitute che sempre accompagnano le truppe militari, e la qualcosa sempre in comunità, in una comunità contadina, non è vista come una professione come un'altra, ma è vista come un problema nella comunità, perché poi malattie venere e tutto questo, e soprattutto la disgregazione del tessuto comunitario. Quindi questo è tutto un mondo di problemi che trae la militarizzazione, che ovviamente adesso sto riassumendo molto velocemente. Come terzo punto invece allora parliamo dei paramilitari, che è diverso, come già accennavo prima, come già sappiamo, come purtroppo abbiamo assistito in altre parti del Centro America, in maniera se vogliamo anche più violenta che in Chiapas. I paramilitari sono civili, allenati e preparati militarmente dall'esercito con funzione contro insurrezionali, ossia fare il lavoro sporco. Se l'esercito non può entrare in una comunità, quando? Perché a volte lo fa, però quando l'esercito non può entrare in una comunità per mietere terrore, usano gruppi armati preparati dall'esercito, però civili, per cui si leva le responsabilità allo Stato Maggiore e il governo messicano. A questi gruppi tocca la parte più tremenda: violentare le donne o comunque minacciarle di abusi sessuali. Sul corpo della donna succede molto questo, diciamo, è quasi una funzione implicita del paramilitare l'aggressività maschilista nei confronti delle donne, considerate bottino di guerra, no? Cioè, se io violento la donna di un compagno, no? È il mio bottino di guerra, sto offendendo il suo onore. Quindi d'altro lato, perché questo a volte, cioè, ovviamente la funzione più più conosciuta e spietata è quella proprio dell'omicidio politico, no? Di realizzare omicidi politici a nome o su mandato del governo o su mandato dell'esercito senza implicare questi. Questi gruppi hanno avuto una funzione molto attiva nel 96, 97, 98, 99, e riducendo, diciamo, la loro capacità d'operazione e quindi di finanziamento che avevano ricevuto negli anni del 2000. Oggi questi gruppi sono stati in qualche modo o reinseriti nell'economia locale attraverso i partiti, la nascita di nuovi partiti, hanno trovato il lavoro, o comunque mantengono una funzione attiva come picchiatori di organizzazioni partitiste o ufficiali. Quando dico che riducono l'operatività, la riducono in relazione agli anni 90, però sono persone che non sono state disarmate, restano comunque preparate militarmente dall'esercito per funzioni controinsurrezionali. Quindi, diciamo, c'è un esercito di volontari civili a favore dell'esercito, utilizzabili in qualsiasi momento, sporadicamente, però, come è avvenuto con il Compa Galeano. Cioè, poi all'improvviso, quando servono quelli che devono aprire il fuoco, quando servono i sicari, è lì che va a pescare il governo, in quel bacino di civili preparati militarmente in altri tempi, e che di volta in volta riorganizzano e rifinanziano in base alle necessità, un po' come i fascisti qua. È l'elemento, no? In qualche modo più simile per cercare di capire l'utilizzazione di certi gruppi fascisti che viene fatta quando le lotte sociali non sono più reprimibili in un certo modo dalle forze dell'ordine o dalla questura. Bene, ci prendiamo un'altra pausa e poi ritorniamo sempre in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Sentir esta noche es mía, yo te quiero besar, te quiero sentir, esta noche es mía. Cuidar, esta noche es mía, yo te quiero abrigar, te quiero cuidar, esta noche es mía. quiero sentir. Esta noche es mía. Yo te quiero besar, te quiero sentir. Esta noche es mía. Di nuovo in diretta sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Ricordiamo che qui in studio con noi oggi a Latinoamericana abbiamo i compagni del Nodo Solidale. Stiamo facendo una seconda trasmissione sul Chiapas Zapatista dopo quella dello scorso lunedì, che potete riascoltare su comitatocarlosfonseca.noblogs.org. Oggi stiamo parlando della strategia combinata di sfiancamento, l'aggressione dello Stato contro le comunità zapatiste. Abbiamo visto che questa strategia si articola soprattutto su 7 livelli. I primi due, quello della detenzione politica, detenzione politica, militarizzazione e utilizzo di gruppi paramilitari, li abbiamo visti prima della pausa musicale. Andiamo a vedere gli altri 4. Sì, avanziamo con questa, che ovviamente non vuole essere una didattica della controrivoluzione. Semplicemente abbiamo cercato di dividere su quali assi si muove appunto la strategia controinsurrezionale. È un'analisi molto nostra, però, anche se il termine di guerra integrale del desgaste, guerra combinata di logoramento, di sfiancamento, è un termine che utilizziamo, che si utilizza nel movimento appunto per cercare di dare la profondità dell'intervento antizapatista dello Stato. Quindi, dopo aver visto come si utilizza i tribunali, la polizia, come si utilizza l'esercito, come vengono utilizzati i civili armati però fedeli al governo, vediamo invece una forma che ha preso moltissimo piede dal 2000 in poi, e soprattutto dalla sesta dichiarazione della Selva Lacandona dal 2005-2006, l'utilizzo delle organizzazioni contadine in chiave controinsurrezionale. Ed è proprio il caso della SIOAC. La SIOAC è l'organizzazione che ha in qualche modo organizzato l'imboscata al Compa Galeano, agli altri compagni e compagne zapatisti. E la SIOAC, facciamo un esempio, la SIOAC nasce nel 1975. SIOAC significa Centrale Indipendente dell'Operaio Agricolo, ossia Sindacato Indipendente dell'Operaio Agricolo, e nasce come una costola a margine, però vicino in qualche modo, del Partito Comunista. E la SIOAC è una grande protagonista negli anni del 78-79, primi anni 80, in generale in tutto il Messico. In Chiapas credo che arriva nel 78 nel 79, e esattamente, quindi immaginate, il ZLN è arrivata nell'83, quindi è arrivata addirittura fin prima delle ZLN, e organizzano da un punto di vista marxista i contadini, considerati appunto come operai agricoli. Ovviamente le diverse leadership che si sono susseguite hanno allontanato, come potete immaginare, il senso profondo, no? Gli obiettivi e il senso di questo sindacato di contadini dalle origini, fino a essere oggi utilizzato come uno strumento del governo per reprimere gli zapatisti. Però non è solo una deriva di questa organizzazione. Per farvi un esempio, la SIOAC è stata parte dei Via Campesina, no? E non solo la SIOAC, la ORCAO, come altre organizzazioni in Chiapas, la più famosa è la ORCAO, che è l'organizzazione dei caffecultori di Ocosingo, cioè i coltivatori di caffè di Ocosingo, è parte dei Via Campesina. Però queste organizzazioni, che soprattutto sono alla fine, ruotano attorno alla leadership di qualche dirigente che ha molte connessioni con il governo e con i progetti economici che girano nelle istituzioni, e che utilizzano la forza della base, dei contadini, per farsi approvare progetti, farsi approvare fondi, farsi approvare l'assegnazione di fertilizzanti o di terre. Perché anche in questo lavoro di assegnazione non è solo una ridistribuzione delle ricchezze, come potremmo pensare, ma è soprattutto un'appropriazione delle ricchezze da parte di dirigenti che si approfittano quindi del canale di intermediari fra i contadini e lo Stato. In questo modo si approfittano delle esigenze reali dei contadini, perché i contadini davvero hanno bisogno di terra, davvero hanno bisogno di produrre di più, davvero hanno bisogno di una casa, di una scuola. Questo. Solo che molto spesso i dirigenti di queste organizzazioni ne approfittano per un arricchimento personale. Però in generale si crea anche un'altra questione. Le Oggi vengono utilizzate queste organizzazioni direttamente contro i zapatisti in base a un criterio molto comune, che è quello che i zapatisti, dicevamo, hanno recuperato 250.000 ettari di terra, più o meno 200.000-250.000 ettari di terra, l'hanno recuperati e li hanno messi a produrre ai fini dell'organizzazione, quindi per mantenere la propria autonomia. Il fatto è che le terre recuperate, quando i zapatisti hanno fatto questo, le altre organizzazioni, circa altri 100.000 ettari, sono stati occupati da organizzazioni contadine come la Orcao, la Sioac e queste e moltissime altre, e approfittando appunto il clima insurrezionale che si viveva nel 94, ognuno, i latifondisti scappavano, la borghesia scappava, e tutti i contadini che potevano si sono organizzati e hanno preso un pezzo di terra. Ovviamente la maggioranza della terra l'ha presa le ZLN e continua a gestire la ZLN. Il governo ha fatto una legge di riassegnazione: da un lato ha indennizzato i latifondisti ripagandoli delle terre perdute, e questo nel contesto degli accordi di pace o comunque di pacificazione nel Chiapas; d'altro lato ha legalizzato le terre assegnandole occupate dalle varie organizzazioni. La differenza è che le ZLN non ha voluto legalizzare le terre. Le ZLN ha fatto una scelta che è una scelta di principio: queste terre appartengono storicamente agli indigeni, queste terre non hanno bisogno di essere riconosciute dallo Stato e assegnate attraverso un foglio legale. E questo che significa? Che ci sono 250.000 ettari di terra in Chiapas che legalmente nel tribunale agrario non hanno padrone, perché sono state sottratte ai latifondisti, sono state indennizzate e quindi in teoria apparterrebbero all'Stato, però nei fatti no, perché appartengono alle ZLN che semplicemente non le ha legalizzate di fronte allo Stato messicano. Quindi che succede? Di fronte alla mancanza di terra, i politici locali spesso chiedono alle organizzazioni contadine, promettono alle organizzazioni contadine legalizzare le terre che loro riescono a sottrarre agli zapatisti. Quindi molte organizzazioni, soprattutto, ovviamente non tutti e non in tutte le organizzazioni, però dove, in quelle organizzazioni dove in qualche modo c'è una squadra agguerrita, magari di ex paramilitari o magari di picchiatori o magari di gente decisamente antizapatista, si muovono, si riorganizzano per andare a occupare, a rioccupare le terre occupate dai zapatisti, no? E farsele assegnare in questo modo, come premio dell'audacia di sfidare i zapatisti, un presidente municipale, un sindaco, la prima cosa che fa è assegnarle legalmente queste terre. In questo modo diventa appetitoso per un contadino povero, o comunque trova un senso un contadino povero per attaccare gli zapatisti, perché dicono: io non c'ho terra, quelle terre non sono di nessuno, sai che c'è, mi lancio. Magari ci dice bene, comunque i zapatisti di solito non sparano in faccia alla gente che fa, cercano sempre una mediazione, no? E quindi in qualche modo la gente per necessità si ritrova anche a ingrossare le file di organizzazioni che invece scientemente e coscientemente fanno uso di questa necessità dei contadini per sottrarre terra alle ZLN. È così che si scatenano i conflitti fra comunità e comunità, fra organizzazioni contadine e l'altra. E vado avanti, questo mi ho voluto dedicare di più perché è quella che fa capire perché le organizzazioni come la Sioac o come la Orcao, organizzazioni quindi che vengono dalla sinistra storica messicana e vengono aderenti in qualche modo a Via Campesina, non dico questo per screditare Via Campesina, lo dico per rendere idea della complessità degli attori che si muovono attorno a queste terre ambite in territorio zapatista. Seguono i conflitti intracomunitari generati artificialmente. I zapatisti non pagano la luce, non pagano le tasse sulla terra, sono in resistenza civile. In qualche modo loro fanno una autoriduzione totale delle bollette, perché non riconoscono lo Stato, non chiedono nulla allo Stato, non fanno parte del servizio sanitario, non sono parte del sistema scolastico, quindi non pagano nulla allo Stato. In qualche modo questa è la vita in resistenza. Che succede? Spesso quindi la Central Federal d'Elettricità o il consorzio per l'acqua, a secondo del gruppo, no? Interessato, le imprese interessate, le imprese parastatali interessate alla questione, dicono ai non zapatisti: guarda, noi non vi possiamo aggiustare il palo della luce perché nella vostra comunità c'è qualcuno che non paga, e ovviamente quel qualcuno che non paga sono i zapatisti in resistenza, e quindi spesso si creano dei problemi artificialmente, perché l'impresa potrebbe riaggiustare il palo della luce, potrebbe connettere il servizio d'acqua potabile, però mettono come condizione per un riallacciamento del servizio o il rinnovo di un servizio, come condizione mettono il totale pagamento da parte della comunità e soprattutto quindi la messa in regola degli zapatisti. La qualcosa i zapatisti non accettano mai, non possono accettare un pagamento a istituzioni dello Stato, a servizi dello Stato di cui loro non usufruiscono, comunque non riconoscono, perché ovviamente ricordiamo che in Chiapas si produce l'80% dell'elettricità di tutto il Messico, quindi dice perché noi dobbiamo pagare la bolletta di un bene che produciamo noi, visto che sono le cascate e i fiumi del Chiapas a produrre l'elettricità di quasi tutto il Messico. Quindi con questo discorso di coerente di resistenza viene attaccato da parte delle imprese parastatali, però non tanto frontalmente, non vanno a prendersi i zapatisti a denunciarli, ma muovono altri componenti della comunità a linciarli, a denunciarli, e quindi là si creano conflitti, perché a volte arrivano 100 che pagano le bollette, che dicono non ci stanno riallacciando la luce perché 30 zapatisti non vogliono, e lì cominciano a bastonare e tutto quanto. Questo è per rendere l'idea che quindi come una certa quotidianità difficile di un zapatista in resistenza, non è che, no? Però dobbiamo sottolineare che sono indotti, sono artificiali questi conflitti, perché sì, si potrebbe risolvere molto semplicemente mantenendo separati i zapatisti e i non zapatisti, assegnando a chi di diritto paga la luce e lo vogliono e a chi sta in resistenza, no? Quindi è evidente. E infine stanno i programmi assistenzialisti, cioè dobbiamo dire che i programmi, in questa logica in cui i zapatisti stanno in resistenza civile, ossia che rifiutano qualsiasi servizio da parte dello Stato perché sono in grado di autogenerarli, e soprattutto perché hanno dichiarato guerra allo Stato messicano, essendo che lo Stato messicano ha dichiarato guerra a loro, i zapatisti non accettano programmi di pensione, di appoggio alla vecchiaia, borse di studio per i giovani e tutti quei programmi che noi siamo abituati a considerare come parte del welfare state, però in realtà in Messico innanzitutto non sono finanziati dal programma dallo Stato messicano, ma sono soldi del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Interamericana di Sviluppo, che servono per compensare le politiche di riassestamento del territorio. Cioè bisogna creare dei grandi mercati, cioè il Plan Puebla Panamá, che è la costruzione di un corridor industrial, come si chiama là, di un corridoio industriale e turistico, e in questa riassegnazione dei territori i contadini disturbano questi contadini, quindi bisogna allontanarli dai campi, immetterli nel mercato come forza lavoro economica accessibile e disponibile. Quindi questo processo di impoverimento delle campagne è studiato e voluto, però avviene paradossalmente in qualche modo attraverso assegni familiari, attraverso il rimborso spese per la cassa scuola. Questo perché? Per impedire ai contadini di continuare a sopravvivere con quello che coltivano e renderli dipendenti dall'assegno statale e quindi accessibili al mercato, perché poi con l'assegno lo devono cambiare in soldi e vanno a comprare in città. E i zapatisti hanno una visione molto chiara di questo, quindi per questo motivo rifiutano i programmi di governo, per questo motivo rifiutano partecipare ai progetti di sussunzione definiti dai programmi assistenzialisti. Quindi, però ovviamente inoltre vengono utilizzati nelle comunità, soprattutto nelle comunità dove ci sono zapatisti. Spesso in comunità dove non ci sono zapatisti sono molto più poveri e non arriva nessun programma di governo, perché il governo non ha assolutamente nessun interesse nell'aiutare le donne povere, i vecchietti poveri, non gli interessa, ne possono pure morire di fame per loro. Quello che gli interessa è che gli zapatisti smettano di essere tali, smettano di stare in resistenza e passino ad accettare i programmi di governo, quindi ad abbandonare la lotta. Quindi c'è un utilizzo come fomento della diserzione, perché ovviamente se accetti un programma di governo non puoi più essere zapatista. Dobbiamo dire che questa è sicuramente la strategia che più ha funzionato rispetto a tutte le altre, perché poi le condizioni proprie della vita personale di ogni contadino, di ogni contadina, di fronte all'offerta di costruiamo casa, di facciamo una strada, di mettiamo una scuola, di mettiamo un ospedale, poi non importa che la scuola non funziona, non rispetta la lingua indigena, l'ospedale non c'è i medici, la casa che ti costruiscono è comunque della lamiera e cemento che dopo tre piogge si squaglia, non importa, perché ovviamente quello, l'obiettivo non è dare una vita degna al popolo, ai lavoratori, ai contadini, ma è appunto allontanarli dalla lotta. Se per allontanarli dalla lotta è necessario spendere soldi, lo Stato Chiapaneco li spende come? In Chiapas piovono milioni e milioni di pesos per cercare di far disertare i zapatisti dalla loro lotta. Chiudo tutto con il necessario silenzio mediatico attorno ai zapatisti. Siamo soliti ricordare che Marcos e gli zapatisti hanno goduto della fama dei telegiornali, di internet, della televisione, perché è vero, nel 94 in qualche modo ruppero il silenzio mediatico attorno alle popolazioni indigene. All'improvviso ci siamo resi conto che gli indigeni sì esistono, in Messico ancora esistono i Maya, non sono scomparsi come i dinosauri come ci spiegano a scuola, all'improvviso, che i Maya non sono quelli delle piramidi di Pagal, ma sono un popolo di contadini che ancora bla bla bla. Tutto questo, il successo in qualche modo mediatico di Marcos ci ricorda. Dopodiché, perché oggi non si parla più di zapatismo e che non fa più notizia? Però questo fatto che non fa più notizia non dipende dai zapatisti, che continuano ad essere lì, continuano ad essere tantissimi e continuano a rappresentare un'alternativa rivoluzionaria al capitalismo, quanto piuttosto dal silenzio mediatico studiato, scelto come parte di una strategia tendente a isolare i zapatisti. Questo perché in Messico è difficile che possano criminalizzare i zapatisti. Noi siamo abituati che i movimenti rivoluzionari, a maggior ragione se armati, vengono criminalizzati, sono terroristi, tacciati di terrorismo. In Chiapas e in Messico la verità è che è molto difficile per il governo e per i media tacciare di terrorismo agli zapatisti, perché hanno dimostrato nel corso della loro esistenza e della loro relazione anche con il potere di fare un uso molto particolare delle armi e soprattutto di fare uso della parola e dell'etica, l'etica come arma politica. E pensiamo alla liberazione dei prigionieri di guerra che hanno fatto, alla mancanza di giustiziamenti, giustiziamenti si dice in italiano, scusate, però in qualche modo, e soprattutto alle numerose proposte di organizzazione civile e pacifica con la società civile per fare la rivoluzione, per sovvertire l'ordine capitalista in Messico, però in questo modo. E quindi la scelta del governo è stata, da un lato, dichiarare che non c'è più guerra in Chiapas, tant'è che non si sente più parlare dei zapatisti, quindi viene ovattata qualsiasi denuncia, è un muro di gomma attorno alle comunità. E questa, diciamo, è la strategia mediatica utilizzata. Bene, abbiamo visto quindi come si articola questa offensiva combinata di sfiancamento, i sette livelli su cui viene messa in campo. Chi volesse risentire questa trasmissione la metteremo presto sul comitato carlosfonseca.noblogs.org. Noi però volevamo concludere questa puntata leggendo direttamente le parole del compa Galeano, che, come ricordavamo all'inizio della trasmissione, è stato ucciso il 2 maggio scorso in occasione di un'imboscata messa in campo dalla SEOAC, da questo sindacato contadino di cui parlavamo prima, nei confronti del Caracol de la Realidad. Sì, allora dunque, questa intervista viene fatta al compa Galeano, la domanda su come è andata l'Escuelita. Appunto, per chi non lo sapesse, l'Escuelita è stato un grande incontro che si è tenuto in più tappe, si è ripetuto in più tappe da agosto e a dicembre e gennaio, in concomitanza proprio con le celebrazioni dei 20 anni dall'insurrezione armata, e a cui hanno partecipato oltre 5.000 internazionali. È stato un incontro appunto che è andato anche oltre il solito incontro fatto nei Caracol in Chiapas, in quanto si è stati proprio quasi per una settimana a vivere a stretto contatto con le famiglie zapatiste, che hanno aperto a 360 gradi le porte dell'autonomia agli internazionali. E il compa risponde appunto che l'Escuelita è un mezzo per comunicarci, per farci conoscere con la gente della città, del nostro paese e del mondo. È come un ponte per comunicare. L'Escuelita è un altro successo raggiunto per mezzo della nostra resistenza, della nostra lotta. È un altro successo perché durante questi oltre 500 anni che viviamo in questo territorio siamo stati sempre, in vari modi, spoliati e sfruttati dal malsistema. Mai il malgoverno ci ha dato questa opportunità, mai il malgoverno ci ha dato questa libertà di incontrarci con i diversi settori di esperienze che ci sono nel paese. Io valuto positivamente l'Escuelita, perché così come nella nostra lotta, ci sono molti giovani che nacquero dopo la nostra insurrezione. Così anche dalle città vennero qui persone che non erano ancora nate nel 94 e che mai avevano sentito dai mezzi di comunicazione, dal giornale, dalla radio, che esisteva un esercito zapatista, né conoscevano veramente il suo programma di lotta. E poi ancora domanda su come valutava la partecipazione di chi aveva partecipato alle scuole Ida. Galeano risponde: sì, io valuto molto positivamente questi compagni, gli alunni e le alunne che sono venute, e appunto dice che quelli che arrivarono al Caracol sono arrivati entusiasti e ringraziano per quello che hanno appreso. Questa è la valutazione che do a loro, perché c'è gente che ha i mezzi per venire in qualche modo, ma ci sono persone che hanno dovuto lasciare il loro lavoro, che hanno risparmiato per venire a imparare da noi. Apprezzo che lo sforzo che hanno fatto per venire qui è stato fatto perché erano interessati e volevano apprendere. Quello che possiamo vedere a livello un po' generale è che le persone che sono arrivate sono persone di valore, perché interessate a apprendere da noi. Dalle loro domande, nei loro commenti, mostravano in qualche modo che erano sfruttati, che anch'essi soffrivano quello che noi soffriamo per essere indigeni. La cosa più importante è che dicevano che avevano un nemico comune, che è il neoliberismo, e che solo uniti possiamo sconfiggerlo. Bene, queste erano le parole del compagno, e in suo ricordo da questa settimana parte è stata convocata dalle ZLN, dai Caracolles Zapatisti, una settimana di mobilitazione in ricordo del compagno e per mettere sotto l'attenzione di tutto il mondo la situazione che si sta vivendo in Chiapas. Noi a questo punto vi salutiamo, lasciamo i microfoni di Radio Onda Rossa Impatto, trasmissione che dà voce ai movimenti contro le nocività, a seguire dalle 18:30 il Tappabuchi, la trasmissione dell'Assemblea Coordinata e Continuativa contro la Precarietà. Ringraziamo i compagni che sono venuti qui oggi in trasmissione, compagni del Nodo Solidale. Grazie a voi, a presto. Grazie a tutti e a tutti. E vi salutiamo, e salutiamo in maniera particolare chi anche quest'oggi ci ha seguito privato della propria libertà.